eccoci qua, tempi tecnici per il rientro negli studi di Via Zanar di Radio Città Fujiko, il Breakfast Club. Oggi tre appuntamenti in mostra, quindi la nostra sigla andrà dopo gli stacchi pubblicitari che saranno leggermente posticipati. Iniziamo con quello che è una sede espositiva molto centrale e soprattutto molto importante per la nostra città. È eterogenea, contiene ed è contenitore di un insieme di espressioni artistiche e motivi di incontro e condivisione, è nel cuore della nostra città, è la Sala Borsa, dove troverà spazio un'esposizione organizzata dal centro di ricerca Il Pioniere, che già conosciamo, avete sentito, no? Lo spot anche che ricorda il burattino più famoso di tutti i tempi, cioè Pinocchio. E beh, io ricordo anche che da bambino il Pinocchio, avevo 4 anni, 5 anni, il Pinocchio con Manfredi e con questo piccolo ciocco di legno che improvvisamente prendeva vita, sì, motivo di insegnamento, ma mi inquietava anche, se vogliamo. Del resto Pinocchio, come ogni fiaba, deve avere motivo di riflessione, anche di monito, ma Pinocchio con la sua dolcezza resta tutti i tempi, il burattino senza età, che è il titolo dell'esposizione, che vede oltre 100 tavole d'autore, l'organizzazione del CRAP, Radio Città Fujiko, l'associazione culturale Stella Alpina, al centro studi d'arte. Quindi diverse sono le collaborazioni su Pinocchio, che a volte sì, ok, Pinocchio con Lodi, ma ci sono tante specificità che non conosciamo e soprattutto tante interpretazioni sia artistiche che emotive che verranno raccontate all'interno di un catalogo meraviglioso di cui Morena Moretti del Pioniere ci racconterà, ma soprattutto con questa esposizione di imminente apertura. È dal 5 febbraio, vi sarà anche un incontro di cui Morena ci parlerà, e intanto allora iniziamo a dare questa anticipazione in mostra con Pinocchio, il burattino senza età. Apriamo la rubrica in mostra del giovedì con un'esposizione che sarà in Sala Borsa. Protagonista è il burattino più famoso, è Pinocchio. La curatela e l'organizzazione è dal centro di ricerca Il Pioniere con Radio Città Fujiko e con noi Morena Moretti. Buongiorno Morena e grazie. Buongiorno Willy. Procediamo con un percorso in mostra che oltre alle immagini dà anche tante emozioni. Ci puoi parlare di questa passeggiata che faremo in Sala Borsa con Pinocchio? Beh, Pinocchio intanto è un personaggio che tutti conosciamo e lo abbiamo letto. Considerate, per darvi una piccola informazione, che quando uscì, ed era nel 1883, ebbe una diffusione, vendette 450.000 copie e la popolazione all'epoca era di 20 milioni di persone, considerate che più della metà erano analfabeti. Quindi fu un successo straordinario ed è probabilmente il capostipite della letteratura per ragazzi. Inaugurò, diciamo, questo, se possiamo chiamarlo, genere. Questo è con Lodi. Allora, Pinocchio lo conosciamo tutti, è un bellissimo personaggio, visto, ridisegnato, ritrattato, riproposto in tante forme anche nel cinema, nel teatro e in questo caso nei fumetti. E quindi che cosa accade? Accade che nel 1953 Dina Rinaldi, che era la direttrice del Pioniere, questo giornalino illustrato per ragazzi, che curava di fatto proprio il Partito Comunista per l'educazione, la formazione dei bambini dell'epoca, nel 1953, dicevo, Dina Rinaldi propone a Gianni Rodari di raccontare a suo modo la favola di Pinocchio con le illustrazioni di Raul Verdini. Che cosa vediamo quindi in Sala Borsa? Vedremo le tavole uscite sul Pioniere tra il 54 e il 55, che saranno 200 tavole in 30 pagine, delle disegni di Pinocchio di Verdini con le filastrocche di Gianni Rodari, e questa è la prima sezione della mostra. La seconda sezione della mostra riguarda invece un altro grande artista, che è Vinicio Berti. Vinicio Berti è un altro protagonista del Pioniere, nel senso che inventò due personaggi per questo giornalino, Chiodino e Attomino, ed è stato un artista astrattista toscano, sempre innamorato anche lui di Pinocchio. Considerate che comunque c'era anche un legame, diciamo, locale, regionale, insomma, con Lodi era toscano ovviamente. E quindi la seconda sezione è Berti, Sono 60 opere, sono 30 litografie disegnate, bellissime devo dire, con i colori primari, sono litografie con disegni molto forti, molto potenti, accompagnati da altre 30 litografie di commento, sono i commenti di Berti. E risultano questi commenti, che sono 30, accompagnano le tavole in un bellissimo racconto e risulta quasi un manifesto politico, direi. Perché c'è proprio anche una critica alla sua società, oltre a raccontare come l'ha disegnato, come gli è apparso Pinocchio, eccetera, no? Quindi molto molto interessante, sarà molto interessante da vedere. Lenny Tristano, Jimmy Hall alla chitarra, direi che abbiamo un livello altissimo per il brano Marionette, che non è esattamente Burattino, però insomma direi che ci sta come colonna sonora per Pinocchio. Volevo aggiungere due parole anche sull'associazione Il Pioniere, aderente a Radio Città Fujiko, con un grandissimo entusiasmo, lavoro, impegno, preparazione, ricerca, porta nella grafica, nell'illustrazione, nel fumetto, nel disegno, tutto quello che è possibile fare per quanto riguarda una diffusione culturale molto molto precisa e ispirata, per cui complimenti al Pioniere, sono ben contento di darne anche la voce durante gli spot. Ringrazio Morena Moretti del Pioniere per la disponibilità, la presentazione, l'anticipazione dei contenuti per l'esposizione in Sala Borsa, che sarà dal 5 febbraio, ma avremo modo di approfondire anche sulle date e i percorsi nella seconda parte di Dialogo. Alcune cose che magari appunto davo per scontato oppure non avevo un'informazione precisa. Ad esempio, pensavo che Pinocchio fosse stato scritto più avanti, a fine 800, successo incredibile, una vendita di 450.000 copie. Il via, per quanto riguarda, anche se parlare di generi insomma è un pochettino limitante, però l'inizio di una pubblicazione di letteratura per ragazzi che poi diventa in maniera eterogenea assolutamente estesa, come l'esposizione per tutte e per tutti in sala borsa. Pinocchio, il burattino senza età, certo, dall'inizio il primo approccio che ho avuto con Pinocchio è in questo sceneggiato, mi piace ancora chiamare sceneggiato, dei primi anni 70, dove il Geppetto Nino Manfredi, il Gatto la Volpe erano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, la Fata Turchina Gina Lollobrigida, e quando improvvisamente questo povero Geppetto crea da un ciocco di legno, portando vita, tanto era il suo desiderio di paternità, io mi sono così un po' spaventato. Adesso la voce mi sta tremando per l'emozione ricordando quei momenti, ma all'epoca mi tremava perché ma come? Si muove? Ma come? Abbiamo, oltre che questi contenuti, anche motivi di incontro. Intanto direi di citare anche le date. Sì, è dal 5 febbraio al 17 febbraio in sala borsa, negli orari di apertura della biblioteca. Poi avremo la presentazione, quindi l'inaugurazione, il giorno 6, che è martedì 6 febbraio alle ore 18, dove sarà presente anche Roberto Sottile, che è il curatore artistico della mostra. E questi sono, diciamo, gli appuntamenti. Poi l'ultimo appuntamento, che è un po' più, diciamo, ludico, è quello della cena, che faremo invece il 10 di febbraio, sabato, all'associazione Villa Paradiso. Abbiamo voluto fare un catalogo, anche perché il catalogo dà testimonianza di un lavoro, di una mostra, e resta. Poi, per tutti quelli che purtroppo non potranno venire a vedere, che magari abitano in altri luoghi d'Italia, potranno però avere il catalogo contattandoci sul nostro sito, che è www.ilpioniere.it, dove poi troveranno le indicazioni per i contatti. E comunque il catalogo è realizzato in una sorta di duple face, proprio per dare la stessa rilevanza a tutti gli artisti che sono i protagonisti di questa mostra. Abbiamo voluto fare una prima parte con Verdini Rodari, poi il catalogo si gira, è un po' complicato da spiegare, bisognerebbe vederlo, e dall'altra parte troviamo Berti con la stessa copertina, un po' che si dia, e le pagine appunto che cambiano di direzione. Quindi no, noi siamo anche molto orgogliosi di questo catalogo. Ecco, quello che non detto è che questa è una prima nazionale, cioè così concepita, una prima nazionale. Pinocchio di Verdini Rodari non è mai stato esposto, il Pinocchio di Berti non è mai stato esposto a Bologna, le litografie che accompagnano il Pinocchio di Berti sono state esposte un'unica volta nel 1983 per il centenario dell'uscita del libro Pinocchio, il storia di un burattino. Provenienza di queste opere, che non sono poche, un lavorone di ricerca. È un lavorone di ricerca, però diciamo le opere di Berti sono litografie che lui fece appunto nell'83 in occasione del centenario dell'uscita del libro, e quindi sono raccolte, diciamo, a Firenze nell'archivio. Ecco, le opere invece, quelle di De Verdini e Rodari, qui c'è stato un lavoro molto più complesso, perché comunque abbiamo dovuto fotografare, quindi stampare in carta fotografica tutte le pagine del Pioniere, che sì, sono 30, ma comunque è stato un lavoro abbastanza corposo. Per il catalogo c'è stato ovviamente un ulteriore lavoro di fotografia, composizione, eccetera eccetera, quindi sì, è un lavoro che stiamo facendo da oltre 6-7 mesi. Ecco, dobbiamo dire anche che Sala Borsa è stata disponibile ad accogliere questa mostra, perché da una parte quella che riguarda il Pinocchio di Rodari e Verdini è anche adattissimo a un pubblico di bambini, è una favola, anzi una fiaba, diciamo meglio, e l'altro, quello invece di Emilio Berti, è più per un pubblico adulto, ma sicuramente ha un valore da un punto di vista artistico anche maggiore, possiamo dire, ecco. times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. E come sulle parole di Moreno, ho voluto dare una colonna sonora da fiaba con gli Alpha Mist, con I Wonder, mi meraviglio di Rodriguez. Immagino l'abbraccio finalmente tra Geppetto e Pinocchio. Mi meraviglio, mi stupisco. I Wonder. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. Oltre Sala Borsa, Radio Città Fujiko, il centro di ricerca Il Pioniere, cito anche l'associazione culturale Stella Alpina e il centro studi d'arte Pinocchio, il burattino senza età, dal 5 febbraio, Sala Borsa, burattino senza età, e come dire, insomma, tutti i tempi, no? Diciamo che nonostante l'età, insomma, non sono più juniores, come lo sapete bene, da tempo, e quindi non ho avuto la possibilità di leggere Il Pioniere se non qualche ristampa, però anche il lavoro per giovani con personaggi, con pionieri così portato avanti culturalmente negli anni 60 dal Partito Comunista per dare informazione, intrattenimento anche di un certo livello, insomma, è veramente qualcosa di oltre che lodevole. Se pensiamo ai tempi odierni per la diffusione culturale, beh, viva Il Pioniere, sempre e comunque la vicinanza con Gianni Rodari, che ne è stato direttore. Ricordo di un'altra pubblicazione ai tempi, è stato il seguito di Vie Nuove, chi si ricorda Vie Nuove, oppure in seguito poi trasformato in Giorni, anche questa è una rivista che prendeva mio nonno materno, purtroppo scomparso prematuramente. Sono riuscito a sfiorare questa rivista e non nascondo che ho imparato a leggere da Giorni, con le ultime pagine che erano dedicate a intrattenimento culturale per giovani lettrici e lettori. Comunque, dopo questa citazione ricordo, diamo una continuità con l'esposizione in Sala Borsa, che sarà dal 5 febbraio. Andiamo in mostra, anzi continuiamo con la nostra rubrica Regola d'Arte, e tra pochissimo Art City con due esposizioni, una che troviamo per quanto riguarda una sede espositiva un po' particolare, ma ogni anno la seguo ed è Orea Malia, un'altra invece che è a Palazzo delle Poste. Beh, ve ne parlerò tra pochissimo dopo la pubblicità. Non cambiate frequenza, speciale Art City 2024, a tra poco. So measure for measure, reflect on my sin, and when I won't see ya, then measure it dead. 'Cause don't you understand, and don't you look about, I'm trying to take nothing from you, so why should you act so put out, and sit there in wonder and doubt, for me.